Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Oggi parliamo della Lega e della bufera scoppiata per i vari scandali che hanno coinvolto diversi esponenti del Carroccio. Raffaella Calandra è stata nei paesi simbolo della Lega. Lingotti d'oro e diamanti. Renato. Mani ruvide di chi ha lavorato la terra per anni sfogliano le pagine della cronaca nel bar più vicino al Sacro Pratone e tra una partita scopa e l'altra un gruppo di anziani leghisti della prima ora si rintuzzano quasi increduli davanti a notizie e scenari di un altro mondo rispetto a quella pelle indurita di chi non si è mai sottratto alle fatiche. La Lega qui a Pontida come in gran parte delle valli bergamasche è dappertutto come i richiami al giuramento del 1167. E per questo ancora più forte è la delusione per il terremoto innescato dalle inchieste giudiziarie, perché è il suono del tradimento di un patto, come non esita ad ammettere quest'altro sostenitore. Quando uno crede in una persona, come io credo a mia moglie, 50 anni che ero assieme, credevo anche a questo partito nuovo, fa proprio peggio degli altri. Quindi cioè ci credeva nella Lega? Ma come, non avrebbe votata io, non voto più, ma mi ha abitonato come gli altri, non voto più Lega, non so chi voterò, ma non voto più Lega. Non andrà a votare? Oppure io voterà qualcun altro? Per sono un cittadino italiano, vado a votare. Però non voterò più Lega. Credevo che era una cosa meravigliosa, invece è stata una bidonata. È andato a sentirlo Marone? No. Neanche a lui si crede? Non si crede più nessuno. La fiducia nella diversità del Carroccio, nelle battaglie del Senatur e in quei proclami gridati nei microfoni dei raduni è stata la colonna portante della Lega, che ha contato sempre su schiere di militanti disposti ad arrostirsi alla melle sotto il sole di giugno, ad obbedire a qualsiasi richiesta del partito, a sostenere la causa anche con soldi propri, a cominciare dall'avventura della banca Credi Euro Nord. Ora colpita quella, la fiducia a suon di inchieste che ipotizzano proprio corruzioni, sprechi e imbrogli, tutto ciò insomma che la Lega diceva di voler combattere, le stesse scope imbracciate da Roberto Maroni sembrano non essere sufficienti ad allontanare la delusione e lo scetticismo sembra prevalere anche in chi non mette in discussione il suo voto. Gli italiani che è un popolo di delinquenti, però alla fine voto ancora Lega, io personalmente. Pulizia, Roma ladrone, tutto il resto. Ma siamo italiani, signora. Gli svizzeri 50 anni fa ci trattavano così e avevano ragione. A chi dobbiamo affidarci? Io personalmente voto ancora Lega. Io ho fatto 40 anni sempre Iraq, Iran, Russia e io alla sinistra non ci credo. Montavo le macchine in imbottigliamento per la Coca-Cola. Delle dimissioni che ci sono state un po' all'interno del partito, l'espulsione di Rosi Mauro, le dimissioni Boni, di Renzo Bossi, fatto bene o male? No, ho fatto bene, per me ho fatto bene, chi sbaglia paga. All'ultimo raduno la gente, i militanti invocavano già Maroni e adesso Maroni è uno dei tre triumviri, le piacerebbe come futuro segretario? Mettiamolo alla prova. Non si aspettava che succedesse anche la Lega, però tutti i partiti sono uguali finché ci sono i soldi di mezzo. Però Maroni adesso, che è venuto appunto proprio qui, assicura che adesso comincerà una nuova fase e dice facciamo pulizia. Speriamo che sia così. Ho votato Lega, non lo so. Cosa votare quest'anno non so proprio. Sono deluso, sono un po' deluso da tutti. Predicavano Roma ladrona e invece non è solo Roma che è ladrona, anche qualcun altro. La gente si sente tradita. C'è altro, si sente tradita, si sente delusa per tutto. Perché qui la gente ci crede. Ci crede. Fanno i volontari. Ma dopo questa faccenda chi ci crede? Secondo lei la prossima Pontida, già c'è la scritta Bossi Pontida 2012. Magari la gente ci sarà ancora, però non ci sarà più quell'entusiasmo, penso. Maroni sta facendo bene a usare le ramazze? Forse è l'unico. Già l'anno scorso, proprio sul prato di Pontida, molti militanti invocavano Maroni. Maroni a me piace. Tutti uguali sono, tutti uguali. Mandi tutti a lavorare, a fare il muratore con la gente lì. Anche i leghisti? Tutti. Uno può avere le buone intenzioni, ma quando entra lì, io non voto più di sicuro. Qualche uomo ci sarà buono, perché anche dei paesi certi sono amministrati bene. E i vertici che fa un po' acqua. Proprio cominciare a fare pulizia nel loro interno, soprattutto ai parenti prossimi. Il caro Trota, che abbia dato le dimissioni, era una cosa che ci... per forza di cose, però una pedatina in quel posto ci andava data, invece lo tengono dentro ancora, fa cos'è? Cambiare le scope, hanno ancora quelle scope vecchie lì, non riescono a fare pulizia. Sul muro dietro al pratone, vernice fresca, appena corretto l'onta di aver visto trasformare la loro legge numero uno, padroni in casa nostra, in un atto d'accusa, ladroni. E scritte analoghe si avvistano su più pareti sparse per il nord, diventate bacheche del malcontento leghista e un po' di quello dell'intero settentrione, di sicuro della sfiducia verso la politica nel suo insieme. Ma l'avanzata del comico Beppe Grillo e del suo movimento a 5 Stelle tra le strade di Pontida in pochi sembrano credere. Ma no Beppe Grillo, ma no, se va Beppe Grillo a comando guai oggi. Sta prendendo un po' delle cambio vecchie battaglie della Lega. Ma lei ci crede? Ma scusi, però io non ci credo. Beppe Grillo per me è un comico, è un comico, basta. La Lega deve aggiornarsi, se no non sta più in piedi. Poi con quello che è successo adesso speriamo che quello che dice Maroni, ma tutti parlano bene, dopo tra il dire e il fare. Beh, però ci sono state tutta una serie di dimissioni, sì, è stato espulso Belsito, espulsa Rosi Mauro. Prima di espellerli così bisogna avere delle certezze. Perché... Quindi lei non è d'accordo con questa linea dura che no, è stata usata? Sì, sono d'accordo con la linea dura, però bisogna andare con i piedi di piombo. La Lega penso che vada a casa. Basta la pulizia invocata da Marone. Siamo stanchi delle frottole. Se che ne che roba, in roba tutti. Tutti rubano. Chi da giù, perché se uno non ruba lo mandano via. Prima un po' di fiducia sono in loro, nessuno gira di qui, qua da Roma. Adesso più neanche da lui. È una guerra di continuo che è contro il governo, perché ci sfrutta ancora noi, che sfrutta tanto ancora i pensionati. Come a rinfrescare un entusiasmo ormai appannato, Bossi Pontida 2012 si legge già in fondo al pratone, che vuoto di armature celtiche, tendoni per polenta e militanti, ora sembra quasi piccolo. Verso il capo, come anche nei confronti dello stesso Sole delle Alpi, c'è chi conserva una fede indiscussa, chi lo accusa per le gesta del figlio e chi invece va oltre, ma snocciola a marcare la vera questione, tutti i problemi che sul territorio si sentono. Sono amico di Bossi, anche se ha sbagliato non interessa. Monti bisogna mandare via, mo quella sta uccidendo le famiglie. Tutti vogliono male a Bossi, a Montecitorio. Io l'ho sempre odiato, suo figlio di Bossi. Cioè, l'errore di Bossi è stato quello di coinvolgere i figli. Ma di mettere il figlio, cosa ne fa lì? Non vede che è proprio una trota. Una Lega senza più Bossi a capo, che cos'è? È una pianta senza frutto. Ma fanno casino sulla Lega per disfarsene, basta, gli altri sono peggio. Non c'è più nessuno onesto. Non voglio più saperne di Roma, di Napoli e della Sicilia, della Calabria. Ma non l'hanno un po' delusa questi scandali che hanno coinvolto la Lega? Tutti, perché Penati e tutti gli altri non sono uguali. E continua la benzina va alle stelle e adesso hanno messo ancora l'ICI sulle case. E quelle quote latte, quei problemi che c'erano, ne parlavano un anno fa, due anni fa, poi sparisce tutto. Le richieste del territorio, insomma, le vecchie battaglie dei primi tempi nel cuore del feudo leghista, è questa la voce che si leva e per questo da qui, da Cisano e Mozzo, Roberto Maroni ha cominciato il suo tour della fase 2, ma una mano di vernice fresca, a sentire i militanti, sembra non bastare a coprire il ricordo di lingotti e diamanti che le mani della base leghista non hanno forse mai neanche immaginato di vedere. È tutto per questa puntata di Controluce, che ritorna domani mattina alle 6:30. Una buona giornata da Alessandra Tedesco.